Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Buona domenica da Stefano Gallarini, comincia Il riposo del guerriero, sono le 10:08. Oggi ci occupiamo di case, di appartamenti, di posti dove vivere, le quattro mura famose che sono quattro mura e che dovrebbero in qualche modo rispecchiarci. Quindi l'argomento della giornata è la casa che vorrei e magari la casa che avete, se ci siete anche riusciti, meno male, sono felice per voi. Intanto però i numeri, come sempre, il numero per i vostri messaggi al 349-238-6666 e poi il numero verde, perché anche oggi giocheremo con il mistero in 24 minuti, la possibilità di portarvi a casa fino a 1.000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, ammesso che riusciate a risolvere il mistero. Più indizi ascolterete e più il premio si abbasserà. La risposta, come sempre, può essere o una notizia della settimana oppure un personaggio o qualcosa di molto conosciuto. Il primo indizio arriva adesso. Un indizio infingardo questo, però è molto chiaro per la risposta giusta, che però dovrete dare voi, non posso mica svelarvela io adesso. Alle 11:30 giocheremo, 800 24 00 24. La casa che vorrei, appunto, questo è l'argomento del giorno. Vi ricordo anche la nostra pagina di Facebook, Il riposo del guerriero, per fare i vostri commenti e raccontarci anche la casa che voi vorreste o magari quella che avete. E per cominciare ho scelto una canzone di Lucio Battisti del 1976, sentito Da dove arriva quel cespuglio. Io, se avete così la possibilità di prestare più attenzione alla radio in questo momento, vorrei ascoltaste il testo di questa canzone, che credo che sia una delle cose più belle che Mogol abbia mai scritto. Tra le tantissime cose che ha scritto, questa secondo me è particolarmente lirica nel vero senso della parola, per l'emozione e la storia che racconta. Ci vuol buio a questo punto, voglio farti tenerezza, la tristezza si dissolve con il fumo, resta solo il tuo profumo, il profumo della pelle, lo sfondo delle stelle, un vago senso di dolore che scompare col respiro del tuo amore. Non so se è mai successo a Paola Marella, che saluto. Paola, buongiorno, buona domenica. Buongiorno a voi, scusate per la voce un po' baritonale, ma gli esiti di un'influenza tipica di stagione. Ma guarda, se tu non ce l'avessi detto non ce ne saremmo neanche accorti. Quindi. E Paola è mediatrice ed esperta del settore immobiliare, ha condotto e conduce su Real Time Vendo Casa Disperatamente, Cerco Casa Disperatamente, ha scritto anche un libro, Arredo Casa Disperatamente. Sì, ma Disperatamente mi accompagna con piacere, devo dire. Ti è mai successo che un uomo così ti prendesse, innamorato di te, ti dicesse: guarda, su questo prato un giorno sorgerà la nostra casa, immaginala? Purtroppo no. Però sei una bella visione. No, guarda, devo dirti che ascoltando le parole di Battisti, che secondo me è inutile dirti che iniziare la giornata con Battisti è straordinario, perché è il più grande, insieme a Mina, sono i due più grandi che io ascolto sempre con grande gioia, però purtroppo quella frase non me l'ha mai detto nessuno. Sarebbe un bel motivo per innamorarsi, devo dire. Sì, a qualsiasi età, credo. Assolutamente sì. Allora Paola, noi parliamo di case oggi, tu sei una grande esperta, io comincerei dalle case più grandi alle case più piccole e prima di iniziare la chiacchierata invito anche gli ascoltatori, se avessero qualche curiosità, di scriverci o su Facebook oppure al 349-238-6666. Il riposo del guerriero. Innanzitutto Paola, quando cerchiamo una casa, cos'è la cosa che ci fa più disperare? Cercare la casa, secondo me, io lo dico sempre, è un lavoro, per cui bisogna innanzitutto impostarlo come tale, perché la casa perfetta non esiste, quindi bisogna cercare di avvicinarsi quanto più possibile ai nostri desideri, ma ovviamente scendendo dei compromessi, come spesso accade poi nella vita di tutti i giorni. Quindi munirsi di grande pazienza e come affrontare quindi un lavoro e da lì partire, vedendone tante, tante, tante, E quando si entra in feeling con un ambiente, con un posto, forse bisogna soffermarsi ed entrare assolutamente un po' più, approfondire un po' più il discorso. Ecco, quando tu dici feeling, no? Perché è vero, vedi un posto e dici, ah, questa la sento, sì, la mia casa, ti arriva proprio quella, come un innamoramento, no? È un innamoramento. Ecco, ci sono degli elementi che tu, nella tua esperienza, hai riconosciuto comuni? Cioè, ci sono delle cose che immancabilmente fanno dire a chi entra, ah, questa è la mia casa. Guarda, no, ti direi che non ci sono degli elementi comuni in questo senso. Noi siamo tutti uno diverso dall'altro, per cui per ognuno di noi sono importanti come quando incontriamo un uomo o una donna, non è mai oggettivamente quello per tutti, no? Quindi così anche nelle case. Per alcuni è molto importante, per esempio, l'elemento luce. Luce è importante, per me, per esempio, è importantissimo l'elemento luce. Quindi se tu entri in una casa buia, per me almeno non sarebbe neanche percorribile. Mentre io conosco tante persone che invece non amano la luce, anzi adorano gli ambienti piuttosto bui. Per cui capisci che non c'è mai un elemento comune. Certo, ci sono degli elementi oggettivamente che rendono più commerciale un bene. Il camino, per esempio, oppure le travi a vista? Guarda, le travi a vista andavano tanto tempo fa, adesso per esempio sono molto superate le travi a vista. Il camino piace tanto, ma quello che piace tanto, ma in realtà ti obbliga anche molto, e quindi sono elementi, devo dirti, un po' superati. Oggi quello che sicuramente funziona sempre molto è lo stabile d'epoca, che può essere l'epoca, non necessariamente l'epoca importante, ma può essere anche un ballatoio rivisitato che diventa molto interessante. Diciamo che gli elementi sono quelli forse più commerciali da tenere in considerazione, quindi un piano alto, una casa d'epoca, la zona ovviamente, la vicinanza dei mezzi. Ecco, questi sono gli elementi che oggettivamente si possono tenere in considerazione, ma quando parliamo di feeling, quando parliamo di scelta di casa, parliamo di qualcosa che tu senti entrando in una casa anche magari diroccata, brutta, da rifare, ma tu senti che quella casa ha un'anima che è la tua. Ecco, adesso, siccome non tutti hanno i soldi per potersi permettere un appartamento ai piani alti, magari un attico in una casa d'epoca, ovviamente. Allora... Beh, ma non c'è solo l'attico, perché il piano alto per me è... No, certo, ma adesso esageravo apposta per arrivare, tra virgolette, all'opposto, no? Il monolocale o il bilocale. Secondo te che caratteristiche deve avere un monolocale o al massimo un bilocale? Parliamo proprio di spazi piccoli, perché siano davvero funzionali. In qualsiasi metratura, anche la più piccola, oggi quando si fanno le ristrutturazioni si cerca sempre comunque di dividere anche lo spazio più piccolo, anche metti 40 metri, quindi anche il monolocale, dare comunque un'idea di un spazio separato, anche fosse semplicemente un divano letto, ma un pochino separato rispetto alla zona, chiamiamola giorno, cioè la cucina, il salotto, cioè la parte giorno. Sì, diciamo. Cioè tu dici ricreare gli ambienti anche se non ho tanta possibilità. Esatto, cioè anche, non avendo, spazio, anche sì, non avendo, quindi non potendolo dividere, perché un monolocale in quanto 35 metri, certo, è un monolocale. Sì. Ma magari creare come un divisorio con una parete non fissa, magari mobile, piuttosto che una libreria, piuttosto che un qualcosa che separi. Ecco, questa è un'idea che c'è molto. Cioè tendere comunque a separare, anche seppur piccoli, gli ambienti. Ecco, tra l'altro, parlando di arredamento invece, quindi scendendo a come riempire, tra virgolette, o non riempire, anche perché anche quella è una scelta, ovviamente, gli spazi, mi viene in mente, quando si condivide un appartamento, una stanza, no? Succede che per lavoro o per studio spesso si deve condividere una stanza con qualcuno, no? Sì. E allora lì bisogna pensare che cosa mettere in quella stanza per renderla propria, ma bisogna considerare comunque la condivisione. Hai qualche consiglio in questo senso? Guarda, diventa molto difficile, perché la condivisione, soprattutto se parliamo di condivisione di lavoro o di studio, è molto difficile. Certo, l'ideale è poter avere, ribadisco, anche in uno spazio piccolo, semplicemente due punti, una scrivania da una parte e il tavolo da pranzo, diciamo il tavolo da pranzo nel senso l'angolo cottura della cucina, piuttosto che anche un punto semplice di appoggio, un pochino divisi appunto da un elemento anche semplicemente di arredo, perché sai, è molto difficile secondo me dividere un locale dove magari devi parlare, devi vedere, devi concentrarti con due persone nello stesso proprio punto, per cui proprio per questo anche piccoli spazi, se appena appena riesci a creare un'idea di divisione, sempre l'ideale. Ecco, quindi tu insomma vedi, esatto, la divisione ho capito che è un punto fermo per te, ma perché ci serve anche a organizzare, no? Ci la serve mente, a organizzare lo spazio e poi soprattutto, guarda, adesso, oggi, anche se effettivamente ci sono delle richieste di metratura, come giustamente facevi notare, sempre più piccole, paradossalmente magari negli 80 metri ti chiedono le due camere da letto, cioè ci sono sempre più, purtroppo, vuoi per la crisi, vuoi per quello che costa appunto il comprare casa. Anche il mantenimento poi in casa, non è solo l'acquisto, no? Perché tutto. Poi c'è anche il dopo. Il dopo, infatti, secondo me è molto importante tenere in considerazione sempre le spese condominiali, ma questo è un capitolo a parte. Quando tu ti chiedono la suddivisione degli spazi, oggi ti chiedono proprio una suddivisione piuttosto tutto piccolo, ma più spazi. Sì. E questo è un po' l'esigenza. Quando noi facciamo le nostre ristrutturazioni, io mi occupo prevalentemente di immobili che vendiamo frazionati, anche l'appartamento più piccolo, ti ribadisco, abbiamo sempre cercato di dividere, almeno che non ci sia la richiesta esplicita del cliente di fare un unico grande open space, ma è sempre più raro il concetto nel piccolo dell'unico locale. Ecco, adesso invece avviciniamoci a chi deve vendere, se ci sono delle cose che vanno fatte, delle cose che non vanno assolutamente fatte quando si vende un immobile. Ecco, quando si vende un immobile, quello che un po' abbiamo voluto dare l'idea con la nostra trasmissione Vendo Casa, no? Dove noi abbiamo dei budget ristrettissimi per migliorare delle case in vendita che hanno difficoltà ad essere vendute, abbiamo dei budget veramente ristretti. Io quel consiglio che do è comunque, ma è come presentare sempre al meglio una casa. E cosa vuol dire presentare al meglio? Non vuol dire ovviamente fare lavori di ristrutturazione vero e proprio, perché infatti noi non li facciamo, ma semplicemente innanzitutto molto ordine, prima cosa fra tutte l'ordine. Seconda cosa, basta un tocco di colore, ma dico di colore per dire anche una ravvivata, perché a volte ci troviamo davanti delle case che magari non sono state dipinte da anni, sì, con delle macchie. Spesso è così, perché la questione è, tanto poi c'entra qualcuno, lo farà lei come vuole. E lo so, però pensa, guarda, questa è un'esperienza che mi deriva non solo dagli ultimi anni della trasmissione, ma da sempre. Io mi occupo da 25 anni di immobiliare nei cantieri, per cui io ho l'inizio, quando tu hai un rudere, tra virgolette, perché lo devi ristrutturare completamente, difficilmente riesci a venderlo. E noi lo mettevamo in vendita a un certo prezzo, meno di quello che poi lo avremmo messo in vendita un anno e mezzo dopo, quando già era molto più a posto. La gente prima non lo comprava, pur essendo paradossalmente l'affare, mentre dopo, pagandolo di più, piuttosto lo vedeva finito ma lo comprava. Questo per darti un'idea che il cliente non ha mai l'idea di come potrà essere. Bisogna dargliela noi, anche con una mano di bianco. Bravissimo. Dici, non è necessario Bravissimo. Che sia per forza colorato, ma basta il bianco, ma pulito. Pulito, senza macchie, magari se c'è insomma una tenda nel bagno, magari tutta macchiata. Ecco, togliere quello che è l'effetto del vecchio, sì, del disordine, del vissuto ma male, esatto. Ecco, non del vissuto bene, ovviamente, esatto. Perché sennò quello funzionerebbe. E questo funziona molto per la vendita, cioè, e non parliamo poi per gli affitti, che questo è determinante. Assolutamente, cioè, sì. L'idea di dare, ma ti ribadisco, non è necessario spendere. Io dico sempre, per chi affitta e deve affittare con dei mobili, guarda, meraviglioso IKEA, per dire, perché ha una ti dà comunque un'idea di ordinato, funzionale, anche di design, perché riesce a dare anche l'idea del design, però ti dà l'idea del pulito, nuovo, fresco e abitabile. Tu capisci che se cominci a mettere dentro tutta una serie di cose vecchie che ti riprendi dalle cantine, che metti lì perché non sai dove mettere, la gente un pochino, in questo momento soprattutto dove c'è molta offerta, magari cambia. Sicuramente sì, ed è proprio così che vanno le cose. Sono d'accordo con te, Paola Marella, ti ringrazio molto, sei stata molto chiara, ci risentiremo presto, buona domenica. Grazie, intanto. Stefano, grazie a te, ciao. Buona domenica. Grazie, che bello, poi uno va a vedere case continuamente, lo facessi io, ogni volta poi dico vorrei questa, poi dopo un po' vorrei no quest'altra, così quindi è meglio non comprare niente, facciamo prima. Stanno arrivando dei messaggi con delle domande che non ho fatto a Paola Morella, semplicemente perché poi dovremmo avere degli ospiti che risponderanno proprio alle domande che state scrivendo al 349-238-6666. Paola Bottelli, ciao, buona giornata Paola, buona domenica. Buona domenica a tutti voi, buongiorno. Paola è giornalista di Luxury 24, il Sole 24 Ore. Paola, parliamo di lusso, permettiamoci anche un lusso che non ci potremmo permettere. Allora, dovendo così la nostra casa economica, chiamiamola così, dobbiamo inserire un elemento di lusso. Tu cosa, dove punteresti? Non so, sul lampadario, sul mobile, su che cosa? Penso che le lampade Made in Italy siano il tocco che fa la differenza in qualsiasi casa. In effetti, anche andando in giro per il mondo, se uno anche per lavoro va pure in ristoranti o alberghi internazionali di livello, vede che le lampade sono sempre tutte italiane. Quindi la lampada italiana è di grandissimo design, è spesso molto copiata, o ci si ispira anche da parte di alcuni. Paola, i grandi player di cui ha appena parlato Paola Morella, sì, sì. Però la lampada originale secondo me è quella che fa la differenza. Paola, è anche molto costosa però, dico un po' sorridendo perché io a volte ne vedo di bellissime e dico vado a vedere quanto costa perché mi piacerebbe mettere un tocco, poi guardo e riguardo e riguardo e chiedo ma è giusto il cartellino, è giusto? Però io vedo una cosa che molti fanno questo investimento nelle loro case, no? Preferiscono rivolgersi a produttori più standard per il resto dell'arredamento e invece scelgono una lampada bella. Ma io concordo, fra l'altro, è vero, scusa, che l'investimento in ricerca e innovazione su questi prodotti è comunque molto alto e chi poi si ispira a questi prodotti, a queste lampade e le scopiazza non ha questo tipo di investimento. Sicuramente. Ricordiamocela sempre questa cosa. No, no, è molto meglio il vero che il falso, questo sicuramente, nel senso che per risparmiare uno prende una copia, non ha veramente senso. Allora a questo punto vada da un'altra parte, cioè si faccia cambi idea proprio. Dipende sempre quanto uno ha la possibilità di spendere, di investire. Secondo me una bella lampada italiana non è una spesa, ma un investimento che dura nel tempo. Io concordo, infatti devo ancora trovare quella giusta per la casa, ma prima o poi arriverò, perché la mia, quello che ho in testa io, a parte con la casa troppo piccola, secondo me. Disegnare da qualcuno, disegnalo tu stesso. Ecco, questa è una bella proposta. Il riposo del guerriero. La casa che vorrei, quella che posso permettermi con quello che ho, posso fare qualcosa di particolarmente interessante. Sono con Paola Bottelli, in questo momento giornalista di Luxury 24 e Sole 24 Ore. Paola, dicevi, vuoi una lampada? A questo punto puoi anche disegnartela, ma dove possiamo partire allora? Della creatività logicamente, e poi bisogna cercarsi un produttore che possa farti su misura una cosa del genere. Ci sono, adesso non mi chiedere i nomi e gli indirizzi. No, adesso non è neanche la sede. Però voglio dire, come succede con un mobile, cioè, funziona nello stesso modo. Con un mobile ci sono dei distretti qui intorno a Milano, nella Brianza, che sono specializzati nel su misura, e per cui addirittura quando si passa sulla superstrada dalle parti di Lissone ci sono tutti delle persone civetta che vengono così, ti vengono addirittura incontro ai semafori per chiederti, lei sta venendo per caso per farsi fare un mobile, venga con me, la porto io nel miglior mobilificio. Ed ecco qua, questa può essere una soluzione interessante da prendere in esame. Paola, a parte le lampade, qual è l'altro oggetto di lusso del desiderio? Ma probabilmente sono tutti i sistemi di televisori e audio hi-fi, wifi, digital surround e tutto il resto che stanno diventando dei veri e propri elementi di arredo nelle case di chi se lo può permettere. Tutto quello che dà piacere dell'ascolto e della visione, anche magari nascondendo i fili in tutti i modi. Ah, no? Beh, assolutamente. Su Casa 24, peraltro, che è il nostro settimanale, sì, che esce tutti i giovedì in allegato con il Sole 24 Ore, ci occupiamo tutte le settimane di oggetti che non sempre sono del desiderio, nel senso che non sempre hanno dei prezzi che sono stratosferici e fuori dalla portata di chiunque, e ci siamo occupati la settimana scorsa proprio di questi elementi che sono appunto diventati dei veri e propri elementi del arredo nelle case. Costruisce il salone attorno a questo grande schermo con ogni tipo di funzionalità. Ecco, qual è l'oggetto che non deve mancare, il lusso che non deve mancare nella casa invece, che secondo te ci deve essere sempre? Mannaggia, questo mi mette un po' in difficoltà. Io non è che sia proprio così poi portata per, come dire, per individuare oggetti di lusso, semmai oggetti che possano piacere a te. Ti faccio un esempio, sì. Ti sto parlando in questo momento da un telefono degli anni 60, quei vecchi telefoni grigi che però nel mio caso è Bordeaux, che ho trovato al mercatino dei Navigli qui a Milano. Secondo me è molto più lussuoso dei super... Sì, tu dici quindi un oggetto che ci appartiene in modo particolare, sì, che sentiamo nostro. Questo ricorda l'infanzia, ce l'avevamo grigio a casa nostra, tutti quanti ce l'avevano, sì. Grigio con la rotella, l'ho trovato in questo colore, mi è piaciuto tantissimo, funziona benissimo e per cui mi piace. C'era per grigio? Me è più lussuoso questo di un Bang & Olufsen, diciamo pure una marca. Dai. Certo, allora c'era grigio, c'era Bordeaux e poi c'era avorio, erano i tre colori. C'era di tanti colori, sì. Perché lì al mercatino ho visto nei colori più bizzarri, arancio, giallo, divertente, un bel elemento, anche se poche persone oramai hanno il telefono fisso, no? Quasi tutti utilizzano i telefoni mobili anche in casa. È vero, comunque. Però poi so anche benissimo da chi ti sei rivolta, perché, okay, perché loro li noleggiano anche, perché ne hanno moltissimi e quindi anche per chi deve usarli in scenografia. Paolo, io ti ringrazio moltissimo. Grazie, vi ricordo, a voi, buona domenica. Ciao, grazie, vi ricordo di seguire luxury24.ilsole24ore.com per continuare a leggere e anche domandare e guardare. Arrivano intanto le vostre domande. Antonio, che scherzosamente dice: proverò a dividere i miei 16 metri quadri, mi sa che non ne tirerò fuori granché. Ma mi veniva in mente l'asta dove si appendono i vestiti, e quindi non l'armadio, ma semplicemente l'asta con i vestiti appesi, magari coperti se volete, se c'è molta polvere dove siete voi, è già un modo per dividere uno spazio da un altro, e in più un modo funzionale, perché lì vengono appesi appunto i vestiti, di conseguenza ha un doppio utilizzo, e quella è una cosa che penso si possa usare senza problemi. C'è Stefano Vettori al telefono, che saluto. Stefano, buona domenica. Buongiorno. Allora, abbiamo chiamato Stefano Vettori perché sono arrivate anche le domande, e in particolare ne cito la prima, che riguarda questo argomento. Gianfranco, che scrive: cosa c'è di vero nel Feng Shui? E cosa c'è di vero, Stefano? E intanto spieghiamo magari per i pochi che non sanno cosa sia il Feng Shui, che cos'è. Sì, allora, innanzitutto il Feng Shui è una disciplina di origine orientale, in particolare proviene dalla Cina, dove si è sviluppata per alcuni millenni. Al giorno d'oggi noi possiamo dire che il Feng Shui studia l'interazione fra uomo e ambiente, fra uomo e abitazione, quindi come le forme, i colori e tutto ciò di cui riempiamo la nostra vita ci influenzano o esercitano in qualche modo un'influenza non immediatamente percepibile a livello razionale su di noi. Ecco, una delle prime cose che vengono in mente quando si parla di Feng Shui sono le direzioni, no? Nel senso che alcuni mobili, quelli che utilizziamo quotidianamente come il tavolo piuttosto che il letto, andrebbero diretti in un certo modo, cioè messi su un'asse est-ovest o nord-sud, a seconda, no? A cosa serve quell'oggetto, dico bene? Diciamo che ci sono varie possibilità di interpretazione, e se noi dobbiamo rifarci, diciamo, al Feng Shui autentico, sì. La disposizione di questi arredi deve essere definita in base poi alle singole persone che lo usano, quindi non c'è una vera e propria definizione di una direzione che in assoluto è migliore delle altre per tutti. Ah, ecco, quindi ecco perché a volte leggo che il letto andrebbe messo nord-ovest, altre volte nord-sud, a volte invece est-ovest. Quindi ho capito, perché poi in realtà dipende da noi, quindi credo da altre caratteristiche, forse anche da... Adesso la butto lì, Stefano, ma leggo il Feng Shui, siccome nasce dalla Cina, forse ha anche una valenza astrologica, secondo quindi il momento in cui si è nati? Potrebbe anche averlo, diciamo che noi lavoriamo molto integrando gli studi scientifici, e per quanto riguarda l'effetto delle direzioni, per esempio sul sonno, non c'è ancora una parola definitiva, quindi ci sono varie teorie che attualmente si stanno testando un po' in vari ambiti, però diciamo che secondo il caso si può utilizzare per esempio una cosa che a volte può valere valenza astrologica, ma devo dire la verità, la maggior parte delle volte la disposizione, per esempio parliamo del letto, sì, deve seguire dei criteri molto più di base che rispettano piuttosto il comportamento degli animali nelle loro tane e come si dispongono per proteggersi quando dormono. Ecco, ecco, quindi questo è molto interessante, infatti sarei arrivato lì, voglio dire, siamo partiti dal Feng Shui millenario a oggi, no? Quindi ovviamente le cose vanno integrate e anche certo, viste al giorno d'oggi. Quindi come si è spostato proprio il Feng Shui in questo senso? Cioè oggi che cos'è? È una domanda molto difficile, perché Feng Shui è una disciplina che per tradizione ha difficoltà a integrare un approccio scientifico. Noi nella nostra impostazione riteniamo che sia molto importante e al giorno d'oggi diciamo che prendendo gli antichi testi classici noi vediamo che i primi maestri hanno cercato di darci una spiegazione della natura e una spiegazione del comportamento degli uomini in base ad alcuni fattori. Per certi versi ci sono riusciti, per altri no. Secondo me il nostro compito come occidentali è proprio integrare un approccio razionale, scientifico, sperimentale in una disciplina che forse ha preso un po' troppo di superstizione e di infatti le domande di ascoltatori nascono proprio da lì, no? Cioè la domanda cosa c'è di vero è perché molto spesso lo si lega a una superstizione. In realtà io credo che nasca proprio da un'interazione fra microcosmo e fra i due microcosmi, cioè l'umano e il dove vive, no? Perché insomma ci sono delle energie da un certo punto di vista ed è vero, anche quando all'inizio dicevamo una casa, un appartamento che andiamo a visitare ci piace immediatamente, lo sentiamo nostro, è perché c'è qualcosa che ci tocca le corde e che non è impalpabile, però c'è. Certamente, difatti noi questo è il classico esempio di decisione che prendiamo quasi mai usando la razionalità, ma quasi sempre usando un impulso istintivo, per cui una casa ci piace, ma magari non siamo in grado di dare una spiegazione. E non sappiamo perché, solo che insomma come l'amore proprio, no? Cioè, esatto, ci piace qualcuno e non sappiamo il motivo esatto, poi lo scopriremo col tempo. Ecco Stefano, puoi darci qualche consiglio per migliorare la vivibilità, cioè rendere più nostro, dare più feeling, ecco, uso una parola in inglese perché più si esprime meglio, al nostro appartamento, alla nostra stanza, al posto dove viviamo? Guardi, io posso dare tre consigli veloci, anche perché devono essere poi adattati chiaramente alla singola situazione. La prima è che come mammiferi tendiamo a prediligere negli ambienti dove abitiamo colori caldi. Colori caldi non sono necessariamente il rosso, ma quelli che contengono una punta di rosso, perché i colori freddi tendono a esaltare maggiormente invece la razionalità e un aspetto più astratto. Quindi i colori caldi facilitano la comunicazione, facilitano il fatto che la nostra attenzione, diciamo, si rivolga verso l'esterno e non rimanga concentrata dentro di noi. Il secondo consiglio che posso dare, che abbiamo verificato che insomma ha una certa importanza, soprattutto negli ultimi anni, è che nell'abitazione che vi sia una porta d'ingresso, che sia un'abitazione o un appartamento, dalla porta d'ingresso alla posizione del letto, che diciamo a livello archetipico deve essere quella più protetta, vi siano almeno tre angoli retti, cioè tre cambiamenti di direzione, perché questo favorisce nel sonno il fatto che la nostra componente animale sa che è in un angolo protetto e difficilmente raggiungibile, quindi il sonno è più ristorante, più profondo. E l'ultimo consiglio che posso dare è quello di tenere il più possibile gli ambienti abbastanza ordinati, e non bisogna essere maniacali, ma se c'è un ambiente, una zona della casa che ripetutamente e consistentemente non riusciamo a tenere ordinata, ora teniamo buia, sporca, inutilizzata, probabilmente c'è qualche aspetto della nostra vita che non riusciamo a integrare bene. Ecco, quindi sono le due cose, vivono in modo parallelo, la nostra vita e ovviamente la nostra casa che ci rispecchia sicuramente. Grazie Stefano Vettori, io voglio dirvi, se volete seguirlo anche, c'è un sito di riferimento che è creativefengshui.it. Grazie Stefano, buona domenica. E buona giornata, arrivederci. Allora, paradossalmente poi ci sono anche i messaggi che chiedono ma il bagno come lo faccio, ma anche il bagno, se è un bagno cieco, se è alla finestra, a mettere le piante, cioè anche quella è una stanza che deve essere arredata in un certo modo e soprattutto con un certo tipo di gusto, e anche perché la possibilità con la luce, almeno secondo la mia opinione. E Francesco Beldì invece adesso è qui con noi. Francesco, buona domenica, grazie. Buona domenica. tecnica. Allora, insieme a Enrico Accorsi ha scritto un libro, si intitola Il mio orto biologico, perché la casa di oggi forse deve anche, anzi no, sicuramente deve avere un occhio all'impatto e crearsi l'orto in casa è un modo per cominciare ad avere rispetto per la terra. Certo, un modo per cominciare ad avere rispetto per la terra, un modo per ridurre la necessità di trasportare le merci, un modo per avere il gusto di prodursi qualcosa da soli e di poterlo raccogliere quando è ben maturo e pronto per essere consumato. Io ci ho detto un sacco di volte che il mio pollice è il pollice viola, non il pollice verde, qualunque cosa io faccia che abbia a che fare con terra e semi alla fine non muore, quindi io ormai ci ho rinunciato. Mi dai delle dritte per cercare di non rinunciare, di riprendere in mano la situazione e cercare di trasformare questo viola in verde? Ma qualche dritta può essere, se abbiamo un orto, di non dimenticarci di usare sempre del compost, del letame che nutrono la terra. Noi pensiamo sempre alla terra come qualcosa che non vive, di inerte, invece anche in un grammo di roccia vivono migliaia di microrganismi e in un grammo di terra ne possono vivere anche milioni, e quindi noi dobbiamo andare da mangiare questi microrganismi che poi interagiscono con le piante e li fanno crescere meglio, quindi questa è la prima indicazione. Ecco, e poi adesso partono le campane. Ecco, allora, mentre ci sono le campane della campagna, gli aggiornamenti sul traffico, poi continuiamo a parlare con Francesco. Il riposo del guerriero. Alle 11:07 minuti su Radio 24 stiamo parlando della casa che vorrei. C'è un ascoltatore Oice, non lo so, non si firma, che mi prende in giro, dice: con quest'ultima domanda sulle verdure con meno manutenzione penso che il tuo pollice ricominci inesorabilmente a colorarsi di viola, perché io dicevo che appunto non ho il pollice verde, qualunque cosa cerchi di coltivare muore, per cui chiedevo un consiglio, ma perché in effetti non ho tempo. E allora dicevo: c'è una verdura, qualcosa, che un piccolo orto che posso fare, un qualcosa di semplice ma che non richiede molta, insomma, la questione è che ci vuole cura per forza, se no le piante addio. Vabbè, sul nostro profilo di Facebook invece, nel riposo del guerriero, c'è Guido che ha scritto un messaggio curioso, perché scrive: nella mia vecchia casa di famiglia a Viareggio ho riscoperto, grazie al bagno rotto di mia cugina che abita sopra, i vecchi soffitti liberti nati con la casa stessa, fatta costruire per mia nonna Flora all'inizio del Novecento. E poi invita a vedere l'album fotografico sul suo profilo aperto a tutti, e devo dire che sembra davvero un'altra Pompei da un certo punto di vista, e quindi per chi fosse interessato le immagini dicono tutto, molto di più delle parole. E a questo punto invece ascoltiamo le parole di Enrico Groppali. Ciao Enrico, bentornato, buona domenica. Buona domenica a te, grazie. Allora Enrico, nel suo peregrinare così a caccia di racconti da parte di attori, attrici del mondo del cinema e del teatro, di case ne ha viste tantissime, immagino. Direi proprio di sì. Ma quanto è facile farsi invitare a casa per un'intervista? Mica tanto. Beh, in genere è relativamente facile per quanto riguarda gli attori. Per quanto riguarda invece gli scrittori forse temono di essere sorpresi in quella specie di aura che in qualche modo gli dà da mangiare, proprio nutre il loro immaginario, voglio dire. E quindi in un certo senso hanno paura di essere sorpresi e che l'irruzione di un elemento estraneo gli rubi qualcosa, gli sottragga un'idea, gli tolga l'ispirazione. E quindi c'è un paziente lavoro di preparazione. Non bisogna lasciarsi scoraggiare, bisogna continuare, non so, a telefonarli, a scriverli, a fargli capire che non vogliamo turbare il loro silenzio o le loro preoccupazioni proprio, ma soprattutto mentre stanno pensando a un romanzo, a un saggio, a un'opera teatrale, ma che semmai vogliamo ascoltare la loro voce, allora diventano disponibili, anche se ci sono delle curiosità e anche delle follie che l'ascoltatore, che colui che l'intruso, in questo caso io, che entro proprio nella fucina proprio della loro immaginazione, nota proprio come qualche cosa di estraneo, ma che evidentemente a loro serve come catalizzatore, insomma, è curioso. E che racconta molto la loro personalità. Da chi cominciamo? Dalla casa di chi? Beh, cominciamo per esempio da un grande scrittore come Michel Tournier, l'autore delle Meteore del Re degli Ontani, il quale ha una casa incredibile nella foresta di Fontainebleau. E c'è questa casa che è un'antica canonica, perfettamente restaurata all'interno, e lui riceve a torso nudo, nonostante l'età, che ha più di 80 anni, e si fa sorprendere a scrivere in piedi. Ma non è che scriva in piedi, non so, appoggiandosi a un mobile, mobile normale. No, si appoggia proprio a un antico leggio proprio del XVI secolo, come un monaco. Io dice, sono un monaco laico, dice. E la cosa più divertente di tutte è che questo signore non sposato, che ha una fama terribile, perché nel suo libro Il Re degli Ontani, insomma, descrive con grande immediatezza e con grande ferocia l'ultimo baluardo di resistenza della destra fascista, quando a Vichy, poco prima della liberazione di Parigi, venivano ruolati addirittura i bambini per cercare di evitare l'ultimo scontro proprio fatale con la democrazia, con la Francia libera. E la cosa più strana è che invece lui ama, non in senso fisico per fortuna, i bambini, che gli vengono portati da tutte le donne del villaggio. E allora, quando entrano questi bambini, si trasforma in un'altra persona, si riveste, abbandona naturalmente questo scrittoio sedicente su cui ha operato fino a poco prima e guarda con loro in televisione i film di Walt Disney. Ecco, una persona molto, molto strana, ma è strano lui più che la sua casa, mentre invece era stranissima la casa di Marguerite Duras, la grande scrittrice dell'Amante, perché mi riceve proprio in pieno centro di Parigi. Entriamo in questa casa molto particolare, cupa, un grande corridoio, e subito mi dice: ah, caro signore, sì, la ricevo con piacere, però mi deve scusare perché in questo momento mi ero dimenticato di dirle che c'è una trasmissione proprio che riguarda me, il mio lavoro, che sta passando in televisione, però sta finendo, le dispiace se la guardiamo insieme? Perché uno risponde: ma certo, signora, con piacere. E poi scopre che il televisore è spento, la spina è staccata, e che lei guarda con grande interesse questo schermo vuoto. Allora non ne ho potuto più, ho detto: cara signora, io la ammiro enormemente, ma se lei ha voluto farmi uno scherzo, io non ho tempo da perdere, come lei non ha tempo da perdere neanche lei, e non vuol perdere il suo, e allora mi allontano con grazia, le faccio un inchino, e lei si è messa, le ha detto: ah, ma lei è proprio simpatico, ha capito tutto, volevo metterla alla prova, adesso ci possiamo sedere qui tranquillamente, possiamo parlare in mezzo ai miei santi. Dico: come santi? Ma lei non è marxista, non è assolutamente laica. Ma dice: ma non ha visto che accanto a me, accanto a questo mio divanino, ci sono questi piccolissimi puff su cui ci sono queste sculture? Dico: sculture non ne vedo, signora, vedo del fil di ferro. Certo, ma questo fil di ferro piegato in due per me sono i santi che dall'aldilà mi proteggono e mi suggeriscono le frasi da dire a quel porco di Mitterrand che è stato il mio amante e non ha voluto affidarmi la conduzione di una catena televisiva, ma adesso gliela farò pagare, i miei santi mi attendono, i miei santi mi proteggono. È stato divertentissimo. Sì, anche perché, voglio dire, non so a che punto, non so dov'è il fil limite, ecco, tra la, diciamo l'essere sani mentalmente, quello leggermente così. Ah, no, ci sono proprio queste persone che approfittano della loro follia e riescono a incentivarla e a trasformarla non solo in un'opera d'arte, ma addirittura anche in un'opera, non dico volgarmente commerciale, ma che ha successo e che gli procura denaro, agiatezza, felicità, diciamo così. Mentre tutt'altro è stato il carrozzone invece della grande regina del circo, e cioè di Moira Orfei. Ecco, allora io ti fermo un attimo, sono aggiornamenti sul traffico, perché questa è una grande curiosità di molti, nel senso che le case che siamo abituati a raccontare, a vedere, sono case ferme, con tanto ovviamente di fondamenta, e invece ci sono anche case che si muovono, però sono case nel vero senso della parola. Ve la racconta Enrico Groppali tra poco, dopo gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Con Enrico Groppali stiamo raccontando alcune delle case di scrittori, scrittrici, attori, attrici, artisti. In questo caso ci siamo fermati nel carrozzone di Moira Orfei. Enrico, raccontacelo. Beh, la signora mi aveva invitato a vedere prima il suo spettacolo, o meglio metà spettacolo, dicendo nella seconda parte io non ci sono, quindi puoi evitare di vederlo. E mi riceve in questo carrozzone, addirittura era qualcosa di dionisiaco, perché c'erano queste meravigliose scacchiere di pietre dure, cose proprio da museo, dove lei faceva un solitario con gli scacchi. Io non giocando a scacchi, non so se questa era una follia sua o se effettivamente i giocatori di scacchi possiedono anche la chiave di poter competere con se stessi. Ma lei immediatamente si è alzata in piedi e mi ha detto: l'aspettavo, ho guardato attraverso gli scacchi se oggi posso andare in cucina o a prendere i miei pasti, oppure se, dato che sono la padrona, mi riporteranno qui senza spargimento di sangue. Dico: ma come senza spargimento di sangue, signora? Sa, è terribile l'atmosfera del circo, potrebbero mettere un veleno nella minestra e io mi tutelo sempre, sempre. E dice: che peccato però che lei non sia venuto 15 giorni fa, perché allora, sa, nello spettacolo io conducevo i miei elefanti, ma adesso ho un'anca che mi fa male, mi devo fare operare, e si mette quasi a singhiozzare. Dice: però ieri sera sono riuscito a convincere mia figlia a lasciarmi i miei elefanti e ho provato una grande gioia insieme a una grande angoscia. Mi dico: ma come, signora, avrà avuto un grande successo, un'umiliazione, perché gli elefanti sono delle bestie caritatevoli che vanno pian piano, docili, gentili, ma si immagini, dietro a una persona che soffre di anca e cammina male, sono stata superata dai miei elefanti. Ah, che umiliazione, che cosa tremenda che ho passato. Certo, quindi c'è Moira che rincorreva gli elefanti. Moira che rincorreva gli elefanti. E poi mi dice: sa, poi è un mondo così strano il nostro. Dico: ma scusi signora, facciamo un po' di marcia indietro. Come è cominciata la grande avventura del Circo Orfei? Lei non è stata la fondatrice, ma semmai la grande propagatrice, la grande vedetta. Ah, dice, è cominciato con un mio antenato che era un prete spretato, si era innamorato di una ballerina e insieme sulle montagne dell'Erzegovina, anzi forse non era l'Erzegovina, forse chi lo sa, sarà stata anche la... ma... come si chiama quel paese in Jugoslavia subito dopo Trieste? Insomma, quelle cose lì, sai, le cose slave. E allora giravano loro due insieme a un orso spelacchiato e facevano dei numeri vari. Poverini, non hanno avuto un grande successo. Alla fine, quando sono morti, ci siamo resi conto che avevano accumulato una fortuna. E così è cominciato il Circo Orfei. Dico: ma lei non ha una casa oltre al carrozzone? Ah, sì, ce l'ho, a San Donà del Piave, molto bella, ma io non riesco a dormire in quella casa. E come mai, signora? Perché sotto non ci sono le ruote, non ci sono le ruote del circo e io ho bisogno di quelle. Solo una volta, dice, mi sono trovata bene in un'altra casa. Qual era, signora? Ah, una casa molto carina che il regista Pietro Francisci mi aveva affittato a Cinecittà, vicino al luogo delle riprese. Dico: le riprese di che cosa? Ah, dice, di un film magnifico, Ercole alla conquista di Atlantide. Mi sono tanto divertita. Dice: ma divertita perché, signora? Per il ruolo, per ciò che diceva? No, ma anche per un fatto economico, perché Francisci aveva sì scritturato me, ma anche tutte le mie bestie, e allora non solo avevamo fatto un meraviglioso Orfei che mi ha procurato soldi, agiatezza, fortuna e felicità, ma anche per il semplice fatto che dover recitare vicino a una pantera, sia pure tenuta, a un leone, a una tigre, io mi sentivo una belva come loro e ho forato lo schermo. Peccato non mi avevano dato neanche un premio. Quindi alla fine, insomma, la sua vita è sulle ruote e con gli animali, che e però con gli animali, vista sempre con gli animali. Vista l'età, ormai a quanto pare deve correre, cioè ai quali deve correre dietro. Ma è stato un dialogo simpaticissimo. Lei poi ha ricordato Fellini, la Marina, certo. E alla fine mi ha detto: senta, ma il nome Moira le dice qualcosa? Beh, dico, signora, è quella di una divinità della mitologia classica. Ah, ha fatto bene a dirmelo, perché sa, è stata un'idea di un altro regista, perché qual è il suo vero nome, signora? Mora! Io le mie prime grandi fotografie pubblicitarie le ho fatte pubblicizzando una lambretta di Nuovo Conio, e io proprio, sai, ero more, ero una bella donna, avevo dei seni scoppianti sotto una maglietta rossa, si è fermato il traffico di Roma mentre la televisione mi riprendeva. Beh, immagino anche, certo. Però dice i registi, Mora Orfei, gli sembrava volgare, allora hanno aggiunto una I, Moira, e mi è rimasta. E devo dire che il successo tra la cofana in testa e il nome c'è stato, e come. Grazie, come. Grazie Enrico per i tuoi racconti, davvero, e per questi spaccati che ci fanno così vedere quei personaggi nella loro cornice giusta. Grazie Enrico Groppali, buona domenica. Grazie anche a voi, domenica, e grazie ancora. Ciao. Francesca, buongiorno, la nostra glottologa. Ciao Francesca Dragotto. Ciao e buongiorno a tutti. La tua casa da dove parte oggi? Parte da libri che non so più dove sistemare, e in prospettiva dalla ricerca di una nuova casa. Per far stare i libri o per far stare Matteo? Diego, però. Diego, scusami. No, figurati, per tutte e due le cose, perché crescono di pari passo. Invece il mio intervento di oggi in qualche modo va a contrapporsi a tutto quello che è stato detto fino adesso, perché l'etimologia ci svela un quadro completamente diverso sulla casa. Casa infatti etimologicamente significa capanna, dimora del pastore. Quindi esattamente l'opposto rispetto all'idea di accogliente, in grado di riparare dalle intemperie, e poi dall'idea del focolare, tant'è che si diceva, un grammatico del VI secolo diceva che la casa si contraddistingue per il fatto di essere costruita attraverso canne, attraverso dei polioni di piante, quindi dei rami di piante, attraverso insomma delle sostanze, dei materiali che non erano assolutamente in grado di preservare dal freddo o dal caldo, quindi proprio tutto all'opposto rispetto a ciò che è emerso fino adesso. Per quanto riguarda invece il contesto, per così dire, culturale in cui casa è nato, sicuramente dobbiamo immaginare il mondo addirittura preromano, perché se si fosse trattato di una parola romana, oggi diremmo molto probabilmente cara e non casa, perché nel III secolo a.C. Internamente al latino tutte le s che si trovavano tra due vocali sono diventate r. Qui non è successo, come non è successo per rosa, e quindi quasi sicuramente si tratta di una parola che tecnicamente definiamo di sostrato, quindi una parola che sicuramente apparteneva a una delle lingue precedenti alla latinizzazione. Questo apre uno spaccato che in qualche modo mi permette di richiamare quello che Eva Cantarella ha detto una mezz'ora fa, perché naturalmente nell'immaginario di chi conosce il latino il termine di riferimento è domus, non è assolutamente casa. Quindi, certo. Quindi inizialmente casa si trovava in una sorta di contrapposizione con domus, leggibile nel senso di rustico contrapposto a urbano, dove urbano, oltre che nel senso della urbs Roma, andava inteso come sinonimo di eleganza, come sinonimo di vivere secondo un certo stile, vivere da romani. Quindi casa, pur essendo il termine che poi ha vinto nel passaggio dal latino alle lingue romanze, tant'è che lo troviamo in tutte le lingue romanze, era inizialmente un termine marcato negativamente, quindi uno di quei termini che oggi bolleremmo come sbagliati, come volgari. Quindi questa è la dimostrazione di come spesso gli usi sulla distanza si impongano sulla norma, benché appunto domus, da cui anche, cioè, l'etimo di domus è ovviamente collegato anche con quello di dominus, signore, con quello di domenica e così via. Quindi domus si è mantenuto, ma con significati ristretti. In italiano, tanto per intenderci, è duomo. Certo, quindi è rimasto soltanto lì. Sì. E quindi, ecco, per quanto riguarda le lingue romanze, lo ritroviamo un po' ovunque, dal rumeno al sardo, al catalano. Qualcuno potrebbe dire, ma in francese non c'è. In francese è mascherato, perché quando diciamo chez moi, chez soi, sì, quindi letteralmente presso di me o anche appunto a casa mia, richiamiamo esattamente la parola casa, perché chez è l'evoluzione proprio del termine casa. Il francese come termine di riferimento ha maison, che viene dal latino mansio mansionis, lo stesso che in italiano ha dato magione. Quindi l'italiano ha continuato il termine mansio del latino, che ha a che fare con l'idea dello stare, l'ha continuato, così come ha fatto il francese, ma dandogli un significato diverso, in particolare riferito alla famiglia monacale, poi al convento, al luogo in cui si ospita e così via. Ecco, Francesca, quindi alla fine se tu dovessi da glottologa scegliere la parola più giusta per rappresentare il luogo dove viviamo, cosa sceglieresti? Forse più che giusta direi la parola più neutra è abitazione. Abitazione. Forse sì, benché appunto intorno a casa ormai si sia condensata una storia che è anche storia di individui, storia della cultura italiana, storia della lingua italiana, che fa sì che di tutto quello che ho detto si sia persa traccia. È soltanto utilizzando gli strumenti della ricerca etimologica che in trasparenza riusciamo a capire come da una capanna di legno, anzi neanche da una capanna fatta di pali e paglia, si sia poi arrivati invece a delle concezioni anche molto aristocratiche, o comunque a delle concezioni in cui sicuramente casa equivale all'edificio solido in grado di proteggere rispetto all'esterno, intorno al quale si costruisce il focolare, che esatto, è l'anima della casa. Certo, grazie Francesca, come al solito buona giornata, poi la potrete seguire su Facebook e insomma neanche nei blog che ha costruito. Insomma, Francesca ormai devo dire che è accolta costantemente da domande, da curiosità che gli ascoltatori le fanno e alle quali lei risponde sempre. Grazie. Ciao. Grazie, grazie a voi, buona domenica. Buona domenica a te. Prima di Davide Paolini, che è in una manifestazione della quale parleremo tra pochissimo, il nostro angolo sui videogiochi. Video game. Video game. Abbiamo parlato di case, grandi e soprattutto piccole, e in una casa ormai oggi si diceva proprio che uno degli arredi più ambiti è proprio quello audiovisivo. Ci sono quindi anche le console che ormai fanno tutto, ci permettono anche di vedere i film, di ascoltare la musica attraverso la televisione o il monitor al quale sono collegate, ma esistono anche le console portatili. Da pochi giorni è uscita la nuova console portatile di Sony, si chiama PlayStation Vita, e volevo raccontarvela anche perché credo che PlayStation Vita possa essere per alcuni aspetti addirittura più appetibile di una PlayStation 3, e nella sua memoria da 16 GB che si deve inserire ci possono stare fino a 10 giochi completi, e quindi questo dà la possibilità di avere molto a disposizione. Tra l'altro c'è la possibilità di vedere la PlayStation 3, nel caso l'abbiate, sullo schermo da 5 pollici della PlayStation Vita. In questo modo renderete portatile qualunque cosa, sia la console più grande ma anche i film, perché è possibile scaricare i film a pagamento, quindi noleggiarli per poterli guardare, quindi oltre a videogiocare potrete anche assolutamente godervi questa console per uno spazio piccolo. Quindi se non avete neanche lo spazio per mettere un televisore, potete anche usare la console per godervi le immagini, i vostri filmati, le vostre fotografie, visto che ha tanto di telecamera sia frontale e sia dall'altra parte, quindi una retro telecamera, per poter fare riprese ma anche per poter inserire i filmati e gustarveli. Per chi ama i videogiochi è una console di tutto rispetto, che permette anche di collegarsi online e di giocare delle vere e proprie partite con gli altri amici sparsi per il mondo. E quindi per chi volesse fare un piccolo investimento per una console, magari non avesse una console di quelle grandi, quelle che siamo abituati a collegare al televisore, direi che la PlayStation Vita può essere una buona alternativa, una console che si può portare in giro, che si può usare dovunque, ma che si può collegare anche a un monitor per vedere un'immagine ancora più grande. Il gastronauta. È a Firenze il nostro Davide Paolini. Buongiorno, ciao Davide. Buongiorno a tutti i gastronauti. Sei ateista in questo momento, sì, credo. Sì, sono ateista tra un bancone di cioccolato e uno di formaggi e un altro di salumi, insomma, un'orgia di profumi e di sapori incredibile qui a Taste. 260 artigiani selezionati provenienti da tutta Italia con le loro straordinarie specialità, e qui veramente uno si rende conto di che cos'è la ricchezza del Made in Italy, che magari forse noi stessi italiani non conosciamo perché magari non conosciamo molto degli altri territori, ma è veramente uno spaccato incredibile anche di molti artigiani che pur di portare avanti la loro qualità si sacrificano, vogliono crescere, vogliono mantenere la loro produzione molto, molto limitata. Veramente un festival. Hai trovato qualcosa che ti ha incuriosito in modo particolare? Ma sai, io, tu sai che io amo molti panettoni, anche se siamo fuori stagione ho trovato un panettone fatto nel padovano davvero che mi ha molto colpito. Ho trovato una crema di nocciole che altrettanto ho messo il dito ovviamente dentro, certo. dentro al vasetto. Ho trovato alcuni salumi che arrivavano dalla Liguria che così non conoscevo e devo dire anche questi mi hanno molto, molto impressionato. Ma guarda, è difficile dire perché diciamo che dovrei stare 2 ore e mezzo al telefono. Ecco, dando un consiglio agli ascoltatori che volessero venire a Taste, che ricordo è aperto fino a domani, siamo alla stazione Leopolda di Firenze e quindi avete la possibilità, se siete da quelle parti, di andarlo a visitare. E tu che percorso consiglieresti? Da dove consiglieresti di partire? Ma guarda, diciamo che c'è un percorso che è proprio quello di fila, cioè uno stand dietro l'altro, che sono tutti diciamo vicini l'uno all'altro. Io consiglio veramente di andare random, nel senso di partire e cominciare a fare degli assaggi, e allora c'è tutta una parte di quello che è dolce, tutta una parte dove ci sono i formaggi, un'altra parte dove ci sono i salumi, quindi dipende proprio dalle richieste, dalle esigenze che uno ha e anche dalle passioni particolari. Però ti dico, trovi produttori che arrivano da borghi sperduti della Sicilia o della Puglia o di altri piccoli centri, quindi secondo me è veramente un viaggio intrigante. Immagino che di gente ce ne sia tanta, lo sento ovviamente anche dal rumore e poi di solito... Sì, già da stamattina, già da stamattina alle 10 appena sono stati aperti così i cancelli c'era già abbastanza piena. Poi ci sono tutta una serie di eventi interessanti, alle ore 16 c'è un incontro con i più blasonati macellai d'Italia che racconteranno un po' storie dietro ai grandi tagli, cosa scegliere, e questo è un altro appuntamento che ritengo molto ma molto importante. Poi c'è tutto fuori di Taste, sì? Perché non c'è solamente, quando qui chiude la città diciamo si anima e ogni locale, che può essere un cinema, può essere un teatro, può essere una galleria, c'è qualcosa, perché i produttori stessi poi o altri organizzano all'interno anche dei ristoranti delle serate particolari e molti fanno anche delle feste particolari anche con musica, quindi diciamo che Firenze si anima la sera. È un po' quello che succede nel fuori salone a Milano, la salone del mobile, ecco, sì. c'è la parte del fuori salone, sì, che a volte è anche più colorata, no, del salone stesso, è molto interessante per altri aspetti. C'è un sito, ovviamente andate su pittimmagine.com, cercate Taste, avete tutte le informazioni. Vi ricordo che è aperto fino a domani alla stazione Leopolda di Firenze, ma poi anche in tutta la città, come avete appena sentito. Grazie Davide, buona domenica e goditi la manifestazione. Ciao. Un mistero in 24 minuti. Pronti con i 1000 euro da spendere su librerizzoli.it 800 24 00 24. La risposta può essere una delle notizie della settimana oppure un personaggio o qualcosa di molto conosciuto. Voglio ricordare che le risposte via SMS non valgono, anche se qualcuno risponde così, poi se volete farlo per divertirvi va bene, però non valgono per potersi portare a casa il premio. Ecco il primo indizio di oggi. E giocare a innamorarsi come prima, come si cambia per non morire, come si cambia per amore, come si cambia per non soffrire, come si cambia per ricominciare. Sara da Parma, buona domenica, ciao, tu sei mai cambiata per amore? Sì, succede. Succede a tutti a quanto pare. Allora Sara, cosa vogliamo fare? Abbiamo 1000 euro qua sul tavolo per te. No, ascoltiamo un altro indizio. Eccolo qua, andiamo a 500 euro. E con te vale la pena di tentare l'avventura. sentire Antonella Ruggero così entrare, perché questa canzone era stata uno dei più grandi successi dei Mattia Bazar. Si intitola tuttora Che male fa Sara. In Mattia Bazar di Che male fa e prima Come si cambia Fiorella Mannoia. Questi due indizi per allora, 500 euro. Io dico la Coca-Cola e la Pepsi, che hanno dovuto cambiare la loro formula perché un colorante che diciamo componeva questa bevanda è risultato essere cancerogeno, per cui hanno dovuto cambiare, e quindi probabilmente cambierà anche il colore della bevanda sostanzialmente. Andiamo bene con tutto quello che abbiamo bevuto, voglio dire. Esatto. Per cui... alla buon'ora. Davvero, grazie Sara, ottima risposta, anche se sai che la soluzione avverrà, si ascolterà al 24esimo minuto. Ciao Sara, buona giornata. E gli aggiornamenti sul traffico, poi Daniela da Firenze. Da martedì 27 a venerdì 30 marzo torna in fiera Milano Ro MCE, mostra convegno Expo Comfort, la fiera leader mondiale nei settori idrotermosanitario, riscaldamento, condizionamento ed energie rinnovabili. Un appuntamento da non perdere per tutti i progettisti e operatori del settore. Spazi espositivi, convegni ed eventi in 4 giorni dedicati a Zero Energy 2020 verso l'integrazione. Tutte le informazioni su www.mceexpocomfort.it. Strade in diretta. Traffico intenso in direzione della Fiera di Bologna, code in uscita agli svincoli della A14 Adriatica in direzione di Ancona. Trafficato anche il grande raccordo anulare di Roma, con code a tratti tra Appia e la Roma Fiumicino in carreggiata esterna. Prudenza per le condizioni meteo instabili sulle regioni meridionali, e il vento continua a soffiare forte su tutto il versante occidentale della penisola. Per il maltempo in Sicilia rimane interrotta la linea ferroviaria Catania-Siracusa. È tutto, a più tardi. Un mistero in 24 minuti. Daniela da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Allora, che cosa vogliamo fare? Abbiamo già due indizi svelati, 500 euro. Mi hanno bruciato la risposta, perché anch'io volevo dare quella risposta, e già da quando ho sentito la notizia ho detto questo sarebbe perfetta per il gioco. Poi quando ho sentito il primo indizio in settimana ho detto allora è questo, solo che a questo punto mi ha bruciato, non chiedo altri indizi e provo solo il marcio, la Coca-Cola, invece che la notizia. Provo a dire la Coca-Cola. Brava, no, cioè nel senso che hai capito il meccanismo appieno, Daniela, e niente, potrebbe anche essere, tu dici no, non la notizia ma l'oggetto in sé, insomma. Vediamo. Il marchio, ecco, sicuramente molto famoso. Grazie Daniela, buona domenica. Gianni da Prato. Sì, buongiorno. Restiamo in Toscana. Allora Gianni, cosa vogliamo fare? Ormai mi indirizzo in altro settore. Direi la omelia di Padre Boschi al funerale di Lucio Dalla. Atteggiamento della Chiesa in questo sì, caso sì. Che cambia. Se n'è molto discusso. Grazie Gianni, buona giornata, buona domenica. Buongiorno. Luca dalla provincia di Genova. Buongiorno. Ciao Luca, due indizi svelati, 500 euro e qualche risposta data. Cosa vuoi fare? No, io non chiedo altri indizi. Anche tu. Provo così un'altra strada. Allora aspetta un attimo, sì. Luca, sentiamo sì. I due indizi che abbiamo svelato fino a questo momento. Come si cambia per non morire? Che male fa stringere i denti? Come si cambia Fiorella Mannoia, che male fa i Mattia Bazar? Dicevi, Luca. Secondo me, diciamo, la discussione sul cambio della legge elettorale che farà stringere i denti ai partiti, perché pare che perdano il 30% dei deputati o dei senatori, ora non mi ricordo, questa è la proposta di legge. Quindi io dico la discussione sulla riforma della legge elettorale. E qui ci stiamo con entrambi gli indizi ancora una volta. Grazie Luca, buona domenica. Ciao. Emanuela da Verona, buongiorno. Buongiorno. Ciao Emanuela. Sì. Allora, per me la notizia riguarda il marchio Coca-Cola Pepsi disposte a cambiare la formula segreta del caramello per evitare l'etichetta rischio cancro sulle bottiglie. Ecco, è vero Manuela, ma l'hanno detto già come prima risposta, per cui dovresti cambiarla o magari ascoltare un altro indizio per, non so cosa consigliarti. No, ma secondo me questa è quella esatta, quella centrata. Ma anche se fosse quella giusta, non porteresti a casa niente. Lo so, ritenterò. Grazie Manuela, ciao. A voi, buongiorno. Mancano buongiorno. 5 minuti alla soluzione del mistero. Posso dire che non era la risposta giusta quella? Lo diciamo, dai. Non potrei, però lo dico. Perché sennò vi state fissando lì e non va bene. Se volete portarvi a casa il premio, se volete lasciarmelo qui, ci sta. Mauro, dalla provincia di Massa Carrara, buongiorno. Buongiorno, io ho assolutamente indovinato, ancora prima di sentire il primo indizio. Beh, allora perché questo. Perché ho sentito la notizia e ho detto, quella era perfetta. E qual è la notizia? Un paesino spagnolo che ha cambiato le colture tradizionali per mettere la marijuana nel sud della Spagna. Ma ora non faccio nessun commento. Ciao. Deve essere quella. Buona giornata, ciao. Grazie, ciao. Ne avrei, ma non posso. Marcella da Roma, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao Marcella, cosa vogliamo ciao. Fare qua? Vogliamo... no. Sì, vorrei. Cosa vorrei vorresti? Tanto. Dunque, anch'io all'inizio avevo pensato a quello che pensato tutti. Ma poi, poi... adesso però, ecco, adesso mi è venuto in mente un'altra cosa. Mi è venuto in mente la Grecia con il concambio appunto dei titoli... Dei bond eccetera. Grazie Marcella, l'hanno scritto anche su con gli sms questa risposta. Buona domenica. Ciao, non posso dire nulla perché bisogna aspettare il 24esimo minuto per scoprire la risposta. Certo che anche se voi ascoltaste gli indizi. Patrizia da Catania, buongiorno. Buongiorno, io avevo pensato anch'io all'inizio alla notizia sulla Coca-Cola. Ho capito, però... ma non è, abbiamo detto che non è. Che non è, allora a questo punto ascolto l'altro indizio, vediamo se mi viene qualche altra brava, idea. Brava Patrizia, eccolo qui il terzo indizio. È una corsa ad ostacoli che si vince sempre. Questo è il compianto Alex Baroni della vita è un dado. Il terzo indizio, la vita è un dado, Alex Baroni. Siamo a 300 euro. Patrizia. Non ho la più pallida idea di quale possa essere la notizia. Rinuncio. Mi spiace Patrizia. Mettiamo, no, come si cambia Fiorella Mannoia, che male fa in Mattia Bazar, la vita è un dado, Alex Baroni, Patrizia. Posso, la butto lì, la sì. Notizia dell'Utri, la cui sentenza in Cassazione è stata completamente annullata. Quindi non mi viene nient'altro. Bene Patrizia, però hai dato una risposta. Grazie, esatto. Ciao, buona giornata. Grazie, Giuseppe da Milano. Sì, ciao. Ciao Giuseppe, siamo a 300 euro. Sì, io mi butto anch'io sulla politica. E penso un po' al cambiamento di rotta della Lega, in particolare di Maroni, sì. Nei riguardi del presidente del Consiglio regionale Lombardia Boni, che è l'atteggiamento totalmente garantista, mentre nei confronti dell'onorevole Papa è totalmente accusatorio. Esatto. Grazie Giuseppe, buona giornata. Grazie, ciao. 800 24 00 24. E Patrizia da Roma. Pronto, salve. Eccoci Patrizia. Io non ho nessuna risposta da dare perché tutte quelle che volevo dare sono state già date. Aspetto un altro indizio. Un altro indizio? Va bene, eccolo qua, velocemente. I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. quarto indizio, che è Poker Face, Lady Gaga ovviamente. Quindi è un gioco, insomma. Allora io ci provo. Vai, velocemente. Che Mass Effect 3 è stato chiesto di cambiare la fine. Quindi, grazie Patrizia, ecco. Ma non è questa la risposta, mi dispiace, anche se di Mass Effect parleremo. Buona domenica, ciao, grazie. Ciao. La risposta velocemente, a pochissimi secondi, è Renato Balduzzi, il ministro della salute, ha detto che la ludopatia sarà riconosciuta come malattia. Ecco la risposta, grazie a Giorgio De Luca, redazione, Stefano Tagliaferri, in assistenza Camilla Lauricella, in regia, a tutti voi. A domenica prossima.